Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio in diretta con voi per l'ultima puntata di questo 2011. Poi ritorneremo regolarmente in diretta a partire da lunedì prossimo. Saremo ancora in pista senza nessuna puntata registrata, d'altronde l'attualità ci impone di continuare a mantenere molto stretta la nostra vigilanza su quello che ci sta capitando attorno e su quello che ci capiterà nei prossimi mesi. È stato un anno difficile da raccontare, appunto, riguardandoci un po' indietro. Questo 2011 è stato molto complesso, ci sono stati tanti cambiamenti anche piuttosto complessi che hanno appunto portato anche a vivere, per quello che riguarda le famiglie italiane, un anno non facile. Tanti italiani si sono ritrovati a fare i conti con una situazione economica che lascia poco respiro. Qualche altro sacrificio arriverà, ma per la verità stiamo parlando di una crisi abbastanza profonda che ci trasciniamo dal 2007. Le prospettive per il 2012 non sono molto rosee, forse proprio per questo è giusto partire per tempo con i buoni propositi per il risparmio e il bilancio familiare. Le variabili però sono tante, a partire dall'andamento dei mercati, dalle decisioni della politica. Allora, cosa porterà con sé l'anno nuovo? Ci si chiede cosa succederà all'Unione Europea, all'euro, alle banche, alle imprese. Cosa deciderà ancora il governo Monti nella fase 2 che è stata annunciata ieri, il piano per la crescita che ha delineato solamente il contorno in termini abbastanza generali, ma ancora nel concreto, concretissimo, ci dobbiamo ancora andare. Le famiglie che cosa dicono? In tanti casi si fatica a fare progetti lunghi 12 mesi perché le famiglie guardano con preoccupazione alla quarta settimana del mese, per cui figuriamoci che cosa significhi e implichi appunto fare dei progetti a lunga scadenza. Ma in ogni caso le famiglie italiane, lo sappiamo bene, chiedono equità, cercano risposte dal fisco, dalle amministrazioni, dal mondo del lavoro. Allora noi oggi a Salva Danaio tracciamo un bilancio del 2011, chiaramente soffermandoci sui fatti economici e finanziari che riguardano un po' più da vicino il piccolo, la famiglia, il singolo contribuente, ma faremo anche una rosa, se volete, così come ha fatto la collega che mi ha preceduto, Nicoletta Carboni, in Essere Benessere, chiaramente soffermando la sua attenzione proprio sulla qualità e lo stile di vita. Faremo anche i buoni propositi per quello che riguarda la pianificazione delle vostre decisioni finanziarie, e quindi raccontatecele se volete all'800 24 0024 e così le commenteremo stamattina con i nostri ospiti. Intanto ringrazio e saluto di essere con me. Da tanto avrei voluto averlo qui mio ospite, ma mi è sempre sfuggito, che è simpaticissimo, oltre che un ottimo collega, Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno e buon anno. Buongiorno, grazie. Buon fine anno e buon inizio anno per i giorni che verranno, perché con Mauro questa mattina vi presenteremo il libro dell'anno 2011 del Sole 24 Ore con le previsioni per il 2012, un'iniziativa editoriale che è sicuramente molto interessante, corredata chiaramente di tutte le foto che hanno immortalato gli eventi politici, finanziari, economici e sociali dell'anno che si sta chiudendo. Poi con noi questa mattina Gianpaolo Bazzani, amministratore delegato di Saxo Bank Italia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E molti ascoltatori si chiederanno: ma pure oggi avete invitato una banca, un'istituzione finanziaria? L'abbiamo fatto perché ogni anno Saxo Bank pubblica una lista di previsioni shock basate sul concetto di cigno nero elaborato da Nassim Taleb, che è un gestore di fondi americano di origine libanese, per cui ci faremo raccontare qual era la lista che era stata diramata lo scorso anno, quante previsioni sono state colte ed azzeccate e soprattutto che cosa ci dobbiamo aspettare nel 2012, se sarà ancora un anno dal punto di vista finanziario di eventi inediti che ci stravolgeranno, così come è successo quest'anno, perché come lei ben sa non facciamo altro che parlare di spread, una parola che molte famiglie non sapevano neanche che esistesse nel gergo finanziario, forse neanche molti giornalisti lo sapevano, me compresa probabilmente, perlomeno non pensavo che avesse tutta questa rilevanza questo indicatore, quindi vedremo se anche l'anno prossimo dovremo abituarci a mangiare pane e finanza e così ad avere anche maggiore confidenza con termini nuovi. Saluto anche, lo ringrazio molto di essere con noi questa mattina, Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Dottor Belletti, buongiorno. Ci sente? Non abbiamo... Sì, eccolo qua, perfetto, buongiorno. Perché ci interessa molto il suo punto di vista per capire quali sono le battaglie anche che con la vostra istituzione avete condotto quest'anno e quali maggiori tutele sarà necessario proteggere l'anno prossimo con il vostro lavoro, proprio per le motivazioni che abbiamo appena detto, per le maggiori preoccupazioni economiche che le famiglie dovranno affrontare, per i maggiori sacrifici che molte famiglie appunto dovranno affrontare nell'anno che verrà. Allora, naturalmente non vogliamo deprimere nessuno con questa trasmissione, la vogliamo fare più costruttiva possibile, e quindi proprio per questo abbiamo messo insieme le famiglie, un collega del Sole 24 Ore, un'istituzione finanziaria, per cercare di mettere insieme un po' anche di sentimenti diversi insieme ai vostri, che ribadisco ci potete raccontare all'800 24 00 24, ci potete come sempre anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e come sapete anche noi, nostro malgrado, siamo finiti su Facebook, abbiamo lì il nostro profilo salvadanaio-radio24, e molti ascoltatori animano anche le conversazioni sul social network. Anzi, Bazzani poi ci dà la lista del cigno nero di quest'anno, se vuole la pubblichiamo anche sul social network, così i nostri ascoltatori potranno interagire e divertirsi anche con quelle. Mauro, cominciamo con te, con la fotografia del 2011 che ha scattato il Sole 24 Ore, peraltro nella pubblicazione magari ci racconti poi anche come la possiamo reperire, immagino andando in edicola, niente di tanto complicato, ma non solo. C'è poi anche l'oroscopo del contribuente, questa ma voglio che me la racconti immediatamente. Beh, l'oroscopo del contribuente è un titolo che naturalmente gioca sugli oroscopi, questo è il mese degli oroscopi, ci sono oroscopi. Di che segno sei peraltro, tu che non lo so? Io sono dello Scorpione, tu di che segno sono sei? Sono una gemella irrazionale, l'ho detto anche nella trasmissione precedente, se no non potrei occuparmi di finanza. Non so quale sia la compatibilità astrologica tra di noi, ti posso dire che l'oroscopo del contribuente è un titolo di cui mi assumo in pieno la responsabilità, l'abbiamo fatto perché l'oroscopo del contribuente per il 2012 non è proprio roseo, mi spiace che dobbiamo cominciare da questo, ma effettivamente già leggendo la manovra a Monti, quella che hanno finito di discutere pochi giorni fa alle Camere, beh, insomma, qui si prevedono dei rincari a tutto spiano, c'è naturalmente l'addizionale IRPEF regionale che rincara di uno 0,33, però partendo da uno 0,9, quindi vuol dire un rincaro di un terzo di fatto, e poi rincara in modo differenziato via via nelle regioni, c'è la pensione che, come dire, per diversi di noi si allontana, per quelli che magari erano convinti di poterla raggiungere in pochi anni invece si trovano delle regole completamente modificate, e poi c'è l'imposta sulla prima casa, ne abbiamo parlato, ne hai parlato anche qua. Ecco, l'oroscopo del contribuente, diciamo, non è proprio di quelli così ottimisti, e tra l'altro non ce lo dicono neanche gli astri, quindi lo possiamo, come dire, verificare a priori quello che sarà il nostro oroscopo senza poi verificare se l'anno prossimo le previsioni fatte si sono appunto puntualmente concretizzate. Sappiamo già quello che succederà. Ohimè, temo che se non arriva qualcosa con il Cresci Italia, ecco, o magari più vicino a noi il mille proroghe che discuteranno a gennaio alle Camere, qualche correzione qua e là, ma per il momento noi nel mandare appunto in edicola il libro dell'anno abbiamo segnalato che l'anno si annuncia dispendioso dal punto di vista del contribuente. Mi chiedevi dove trovarlo, si trova sì naturalmente in edicola, è venduto insieme al Sole 24 Ore il libro dell'anno 2011 con le previsioni, come dicevi tu, per il 2012, ma si trova anche sul nostro sito, perché ne abbiamo fatto una versione digitale, una ebook come si dice, quindi sul sito www.ilsole24ore.com, lo raggiungete anche dal sito di Radio 24, www.radio24.it, trovate appunto questo stesso volume in versione digitale. Il bello è che se lo consultate dal sito ci sono fotogallery, video, audio, contributi anche appunto di trasmissioni da Radio 24 che possono essere ascoltate e migliorano, come dire, aumentano il piacere della lettura, o almeno noi abbiamo fatto tutto questo per aumentare il piacere. Certamente. Della siccome lettura. Poi però so che siete stati anche molto attenti alla scelta delle immagini che hanno corredato tutti gli articoli, poi se vuoi puoi anche darci un'indicazione sulla foto che per te rappresenta meglio di ogni altra questo anno che stiamo lasciando. Magari questa è una domanda che farò anche ai nostri altri interlocutori. Vorrei sentire subito Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, perché può stare con noi in tempi un po' più ridotti rispetto ai nostri altri due ospiti e chiedergli immediatamente, visto che dottor Belletti, so che voi siete molto concreti, forse gli oroscopi li guardate poco, ma quello del contribuente che ci ha appena delineato Mauro Meazza ha pure connotati di concretezza molto evidenti e le famiglie lo vedranno nei prossimi mesi. Peraltro, parlando di sacrifici che le famiglie stanno facendo, faranno l'anno prossimo, lo abbiamo visto già uno molto netto nel pieno di benzina in questi giorni, per cui già qualche elemento di concretezza lo abbiamo già toccato molto molto seriamente. Io ho fatto un pieno ieri, peraltro ho fatto un calcolo che pago qualcosa come 20 euro in più rispetto a quello che facevo 2 anni fa, secchi proprio, e ho una Lancia Y, non è che ho la Porsche o un'altra chissà che diavoleria di macchina. Quindi già non pagherai, ecco, il Super Bowl, scusami. E che già mi va bene, esatto, non pagherò neanche quello sullo yacht, se per quello su nessun altro bene di lusso, caro Mauro. Presidente Belletti, allora, che battaglie avete fatto quest'anno, visto che comunque questa manovra di sacrifici che il governo ha presentato da pochissimo, in ogni caso nelle carte, nei conti, a giudicare come andava il mercato, era già preannunciata da qualche mese, per cui forse le famiglie erano già pronte, no, a questa ondata di cattive notizie in arrivo? Noi le tre parole chiave, equità, rigore e crescita, non potevamo non assumerle tutte, però quello su cui stiamo maggiormente in debito è il tema dell'equità, cioè interventi che sappiano distinguere tra le famiglie con carichi familiari, le famiglie con persone anziane, con persone disabili, oppure le famiglie con figli rispetto a quelle senza figli, in questa manovra, ma diciamo che bisogna ricordare che questa manovra è il terzo passaggio, la manovra Monti, di altre due manovre di luglio e di agosto del governo Berlusconi e del ministro Tremonti, che sono tutte una sopra l'altra, e quindi l'impatto del 2011 sarà memorabile per le famiglie, non in termini lusinghieri. Noi ci aspettiamo a questo punto un maggiore investimento sul tema della crescita e poi sul tema dell'equità. Noi avevamo chiesto che si intervenisse seriamente già alla conferenza di Milano del novembre 2010, quindi una conferenza governativa che aveva messo a tema la famiglia, chiedevamo equità fiscale, quindi una riforma del fisco e poi un'attenzione a tutto il tema dei trasferimenti, perché le famiglie più in difficoltà sono quelle che hanno bisogno maggiormente dei servizi sociosanitari, e rapportare meno risorse ai comuni e alle regioni, questo genera sicuramente una diminuzione dei servizi. Quindi noi diciamo che siamo molto attenti a che questi fattori di equità si introducano. Per noi è stato esemplare il tema della tassa sulla prima casa. Certamente era un modello migliore quello dell'eliminare la tassa sulla prima casa, perché la casa è di fatto un diritto, anche se la proprietà della casa può fare una certa differenza, ma quando il governo Monti ha introdotto una detrazione che cresce di 50 euro per ogni figlio, ecco, questo ci sembra una logica giusta, che dà equità tra le famiglie che hanno figli e le famiglie che non ne hanno. Sono le famiglie che investono sul futuro del paese. Presidente Belletti, quando abbiamo cominciato a spiegare il tema dell'allungamento della vita professionale, quindi del rinvio dell'assegno pensionistico, ci siamo soffermati soprattutto su quello che cambierà per le donne nei prossimi anni, perché anche per loro naturalmente sono chiesti più sacrifici, anche le donne dovranno rimanere molto più a lungo nel posto di lavoro. Ho ascoltato molte ascoltatrici che hanno lamentato il fatto che per loro, a prescindere dal fatto che chiaramente non si ha più la forza fisica per lavorare di più, poi chiaramente tutto questo dipende anche dal tipo di lavoro che si fa, ma per molte donne queste scelte del governo che sono chieste dall'Europa e che sono determinate dal fatto che il quadro demografico del nostro paese cambia e continuerà a cambiare, sono rimaste appunto molto frustrate da queste richieste fatte dal governo, quindi dal Ministero del Welfare, perché loro, le donne, aspettano molto spesso di andare in pensione e non vedono l'ora di andare in pensione, perché il loro ruolo diventa un altro all'interno della famiglia, si comincia a diventare nonne a tempo pieno e quindi rappresentano uno degli elementi fondamentali della rete di protezione sociale, sul quale per la verità ha fatto perno anche la società negli ultimi tempi. Insomma, la famiglia aiuta molto le nuove generazioni per creare la propria famiglia, poi in questi termini, insomma, vi siete posti anche questo tema all'interno della vostra associazione, e in che termini? Ma direi che le famiglie vogliono restare nel gioco della cura, e quindi la figura femminile è importante, ma oggi la vera sfida non è consentire alle donne di uscire presto dal mercato del lavoro, la vera sfida è portare servizi che integrino il lavoro di cura femminile. L'anno prossimo l'Unione Europea lancia l'anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Questo è uno dei nodi, a nostro parere, cruciali. La nostra è una società che ha scaricato pesi potentissimi, difficilissimi da portare ai giovani, alle nuove generazioni. E quindi oggi questa richiesta di restare nel mercato del lavoro il più possibile probabilmente serve a riequilibrare uno squilibrio del sistema pensionistico che oggettivamente penalizza fortemente la nostra economia. Quindi io credo che questa manovra di allungamento della vita attiva sia una manovra comunque in qualche modo inevitabile. Ma quello che servirebbe sarebbe un sistema di servizi più flessibile, capillare, gestito dai comuni. Torno al punto di prima, cioè c'è bisogno di più welfare, non di meno welfare, se ci aspettiamo che le famiglie facciano di più, anche perché il calo della natalità porterà a famiglie con un solo figlio che poi avrà 4 genitori anziani e quindi sarà sempre più difficile aspettarsi dalle famiglie la capacità di cura che hanno avuto finora. Benissimo, allora noi ci dobbiamo fermare, abbiamo la prima pausa, prima però volevo anticipare il tema che affronterò con Giampaolo Bazzani, perché c'è l'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, mi auguro che il 2012 ci porti la fine della finanza e delle banche e l'inizio di una nuova economia basata sul lavoro, il benessere e le risorse, caro Bazzani. Per cui insomma lei si prepari ad un futuro con un cambiamento di lavoro, magari, perché insomma secondo l'auspicio di molte persone li possiamo anche comprendere, sono anche abbastanza stressati dal fatto che non facciamo altro da 5 anni abbondanti di parlare di una crisi economica che è stata provocata in qualche maniera dal sistema finanziario, per cui forse qualche commento, a volte anche se esagerato, lo possiamo anche un po' comprendere. Un altro ascoltatore ci augura buono spread 2012 a tutti. Salva Danaio. Un augurio ai cittadini che sono i destinatari del nostro lavoro. Io sono ben consapevole del fatto che abbiamo chiesto, ho chiesto molti sacrifici, molte rinunce, molto sforzo anche mentale per capire l'esigenza di certe trasformazioni ai cittadini italiani e credo che pur nell'insofferenza nei confronti di certi sacrifici, che capisco perfettamente, ci sia però una grande comprensione della necessità di questo sforzo comune per dare un'Italia più degna a tutti noi e una maggiore speranza nell'Italia e nella loro vita concreta in Italia ai nostri figli e ai nostri nipoti. Era il Premier, era il Presidente del Consiglio Mario Monti, lo avete sicuramente riconosciuto ieri a quest'ora, abbiamo ascoltato in diretta le parole della sua conferenza stampa finale, chiaramente soffermandosi sul tema dei sacrifici chiesti alle famiglie, come avete sentito. Lui ha auspicato appunto di avere la massima comprensione possibile rispetto alle richieste fatte a tutti. E allora noi è proprio questo un po' il tema che affrontiamo questa mattina, che tipo di progetti le famiglie dovranno fare nell'anno prossimo alla luce della manovra che riguarda il nostro paese, ma alla luce anche di quello che ci accadrà un po' intorno, perché forse fino a questo momento siamo stati abituati a monitorare, a raccontare anche i fatti della finanza internazionale, sentendoci un po' distaccati da tutto quello che ci accade attorno, e invece abbiamo visto come quest'anno abbiamo appreso appunto come invece la relazione sia assolutamente diretta dalla crisi dei mutui subprime del 2007. Caro Giampaolo Bazzani, oggi parliamo di una manovra molto severa per il nostro paese, quindi sì, forse la relazione è lunga, il percorso è stato piuttosto articolato per arrivare a questo, ma ci siamo arrivati. Giampaolo Bazzani, ve lo ripresento, è l'amministratore delegato di Saxo Bank Italia, un'istituzione finanziaria danese. Io non me lo ricordavo, me l'ha ricordato lui a microfoni spenti, perché facevamo proprio anche il paragone tra la qualità dei servizi alle famiglie dei paesi del nord Europa e la grande differenza che invece c'è appunto nel nostro paese, che non siamo ancora un paese molto soddisfacente da questo punto di vista, per dirla con un eufemismo. Detto questo, l'abbiamo invitato perché questa banca presenta ogni anno una lista di previsioni shock basate sul concetto di cigno nero, elaborata appunto da Nassim Taleb, che è un gestore di fondi, ma della vostra banca? No, è uno studioso di origine libanese che ha fatto, oltre che tanti soldi con i propri libri e i propri studi, anche il consulente per un hedge fund americano. Allora, perché voi fate vostre le sue previsioni? Come vi è venuto in mente? Insomma, perché magari non lo faceva nessun'altra banca, per cui anche un po' per far parlare di voi, una trovata pubblicitaria, oppure avete trovato delle cose interessanti che queste previsioni raccontano, fanno e poi si concretizzano? Diciamo che più che previsioni sono un vero e proprio esercizio di stile. Sono quegli scenari meno probabili, ma probabilmente per questo con maggior impatto. Un po' nell'ottica del detto non succede, ma se succede. Quindi vengono fatti questi scenari, quasi apocalittici per quanto riguarda i mercati finanziari, al verificarsi dei quali l'impatto per i mercati stessi, i risparmiatori e gli investitori sarebbe decisamente importante. Sembrano apocalittici, per la verità se andiamo indietro e riguardiamo la lista delle previsioni fatte alla fine del 2011, in realtà qualcuna è stata azzeccata di queste previsioni. Ci racconta quale, dottor Bazzani? Allora, rispetto all'anno scorso, la visione, l'ipotesi di un calo drastico dell'obbligazione americana, del rendimento dell'obbligazione americana sotto il 3% è stata azzeccata. I bond americani sono tornati ad essere il titolo rifugio per gli investitori, soprattutto istituzionali. Il petrolio, che va a $100 e poi in estate perde il 30%, e l'oro, questo se ne sono accorti sicuramente anche i suoi ascoltatori per il proliferare di negozietti compro oro usato, sì. Ecco l'oro che ha salito ben oltre i $1,800 per oncia, che sono 31 grammi, che era stato previsto per l'anno appena che sta concludendo. Un po' meno azzeccata la previsione sull'andamento del gas naturale, che appunto Nassim Taleb aveva previsto aumentasse del 50%, non è andata lo stesso altrettanto bene nel rapporto di cambio fra il dollaro australiano e una sterlina inglese, ma a questo punto direi di guardare avanti. Bazzani, ci racconti un po' quali sono le previsioni fatte per il 2012, perché ce ne sono davvero di interessanti, e quella che a me più ha colpito è quella relativa alle elezioni americane. Un candidato che non si è ancora annunciato sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Ci sarà quindi un colpo di scena. Le primarie, peraltro, inizieranno prestissimo, il 3 gennaio, negli Stati Uniti. Sì, l'idea che è elaborata dagli economisti di Saxo Bank, non voglio dare la colpa al professor Taleb, che è solo l'ispiratore. Gli avete suggerito un po' quali campi in cui indagare? No, la teoria del professor Taleb, che appunto a cui ha dato il nome del cigno nero, le faccio un esempio così capiscono anche i suoi telespettatori. Ottimo. Immaginate quando gli esploratori del continente australiano giunsero là per la prima volta vedendo i cigni neri, dopo che per secoli si pensava che i cigni potessero essere solo bianchi. Ecco, un evento shock in grado di cambiare la mentalità condivisa e quindi anche la storia. Allora il professor Taleb dice che la storia, l'evoluzione, quindi anche l'economia, non striscia ma prosegue a salti, in corrispondenza di questi eventi inattesi, in grado di scuotere l'andamento dei mercati e quindi anche la nostra vita. Come se già il primo presidente nero della storia americana non fosse stato un evento che ha abbastanza, come dire, emotivamente colpito l'opinione pubblica internazionale. Adesso ce ne sarà un altro di evento dal punto di vista della storia politica americana? Qui l'ispirazione si torna indietro al 1992, quando il miliardario Perot riuscì a prendere circa il 20% dei voti. Allora, il fondamento di questo scenario è che saranno le elezioni, quelle di fine 2012, maggiormente influenzati dai social network, da Facebook, Twitter e quant'altro. Non è un caso che Facebook, questo non c'è bisogno di spiegarlo ai suoi ascoltatori sicuramente, abbia lanciato un indicatore dell'andamento dei consensi sui candidati alle presidenziali, e che il fondatore di Facebook abbia annunciato di candidarsi in politica. Si porta dietro un potenziale un corredo di consenso non indifferente. Vabbè, dire che siccome Salvadanaio si occupa di altro, si occupa di economia, di finanze, soprattutto di finanza familiare, poi le chiederò anche di tradurre le macro previsioni che le previsioni appunto di Saxo Bank fanno per il 2012, di tradurle anche, come dire, in impatti possibili per il piccolo risparmiatore, perché ne vedo anche di molto interessanti. Peraltro le dico che l'euro poco fa è scivolato sotto quota 100 yen per la prima volta negli ultimi 10 anni. Nelle previsioni dell'anno scorso questo andamento nel rapporto tra euro e divisa cinese c'è scritto giapponese. Qualcosa? Vabbè. Stamattina andiamo bene. Sì, l'euro è in vacanza. L'euro era visto debole, così come è visto sicuramente debole per tutto il 2012, probabilmente perderà su tutte le valute a parte il dollaro australiano. Allora, andiamo a sentire alcuni dei nostri ascoltatori per poi coinvolgere ancora, perché poi tra qualche minuto deve lasciarci, Giampaolo Bazzani. Mauro, non mi sono dimenticata di te, ti faccio sentire, ti faccio fare tesoro di tutto quello che stai ascoltando fino a questo momento, poi lo commentiamo insieme nell'ultima parte della trasmissione. Tra l'altro stamattina con Marco Lombardi, il mio assistente, abbiamo cercato tanto una canzone che potesse così farci concludere bene la trasmissione, abbiamo deciso di non prendere nessuna canzone. Averlo saputo, ti avrei chiesto un supporto musicale. Sì, beh, sai che come supporto musicale, ecco, sono sempre disponibile. Esatto, dopo raccontiamo per quale motivo agli ascoltatori che fossero incuriositi di questa tua attitudine. Non so se in radio l'hai già raccontata quando fai la conduzione della rassegna stampa dei settimanali. Penso di no, non so se vogliamo davvero squarciare questo velo, mettere questo cigno nero. No, cioè invece un evento lo voglio squarciare, perché molti dei nostri ascoltatori pensano sempre che noi non facciamo altro che vivere di pane e finanza, invece dobbiamo anche un po' distruggere questo pregiudizio che ci hanno incollato appunto addosso, e quindi qualche volta anche noi non ci crederete mai, ma siamo capaci di fare altro e parlare di altro. Andiamo alle famiglie invece che ci ascoltano. Domenico da Sassuolo, buongiorno, naturalmente buone feste e buon anno. Domenico, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ci racconti un po' che cosa vede, quali sono anche lei? Perché sono un po' emotivo. Per quello che voglio dire. Questo è un salottino di grande tranquillità, Domenico, si senta al sicuro. Ci dica. Niente, io volevo raccontarvi un po' la mia vicenda. 15 anni fa ho acquistato un appartamento in Calabria. Avevo un lavoro che mi desse tranquillità, mentre invece l'ho perso, o avevo acceso un mutuo. Ho un ritorno al telefono, è normale? Forse deve abbassarlo, deve abbassare la radio forse, Domenico? No, proprio non sono vicino alla radio. E allora non riesco a capire, proviamo... Dopo 5 anni ho dovuto lasciare la mia terra, che è la Calabria, e spostarmi in Emilia Romagna. Ho dovuto sostenere il vitto in Emilia Romagna e pagare un mutuo in Calabria. Quindi lei pensi già al peso che ho dovuto subire. Finito di pagare il mutuo, ho acceso un altro mutuo in Romagna, dove ho acquistato una casa a Sassuolo. In Calabria pago l'ICI come seconda casa, quindi sono già sulle 400 euro all'anno. Io sono nella fascia di reddito dove sono considerato il ceto medio, diciamo. Adesso mi ritroverò con questa manovra a continuare a pagare l'ICI maggiorata, perché gli S mi aumenteranno del 60%, e in più l'ICI sulla prima casa a Sassuolo. Tutto questo solo per la casa inciderà a conti fatti almeno 1000 euro all'anno. E quindi insomma lei dice non mi sembra giusto, e come faccio io a organizzarmi per far pianificare anche bene dal punto di vista del risparmio le cose alla mia famiglia, un po' il senso, se riesco ad interpretare bene, Domenico, quello che voleva dirci. Sto pagando, in fondo la casa non è mia, certo, è della banca finché non finirò di pagarla. Lo so, Domenico. Io devo pagare questa sorta di ICI che loro la chiamano patrimoniale, e devo essere strozzato in questo modo. Domenico, io la ringrazio, faccio sua questa considerazione e la trasferisco a Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, che tra qualche minuto deve lasciarci, perché credo che Domenico interpreti bene anche il sentire di molte famiglie che tra l'altro hanno una proprietà immobiliare, non certo alla stregua di un prodotto, come dire, finanziario, di uno strumento di investimento, ma perché ci si abita. In questo caso Domenico ha anche tutto un vissuto, una storia particolare che lo ha portato prima ad apprendersi appunto la casa in Calabria, adesso questa abitazione a Modena. Insomma, che tipo di ragionamento possiamo fare intorno a questa situazione, che sicuramente riassume quella di molti altri, dottor Belletti? Beh, le famiglie hanno usato il mattone come bene rifugio. Le famiglie italiane sono quelle che hanno maggiore percentuale di casi di proprietà, ma questo dovrebbe essere considerato un comportamento virtuoso nel nostro paese. E invece il problema è che, a causa di una difficoltà di leggere altre direttrici della ricchezza, tutto il tema dell'evasione, il bene casa è stato messo al centro del mirino, e persone che hanno investito e sacrificato i propri consumi per accantonare un bene si trovano ora traditi in qualche modo sia dalla finanza che dalle scelte della politica. Quindi questo è un po' la storia del 2011, e quindi ho l'impressione che il cigno nero per la famiglia non vada bene, nel senso che se le nostre famiglie si ipotizzassero tutti i potenziali eventi critici, potenziali eventi disastrosi, sarebbero paralizzate. Le nostre famiglie hanno bisogno di cigni bianchi, di eventi di speranza. Allora io quello che chiedo alla politica per il 2012 è proprio questo: investire sui giovani, fare un forte spostamento di strumenti di protezione sociale verso le nuove generazioni e investire sulle famiglie con figli, perché sono le famiglie che ricostruiranno il paese. Questo è l'auspicio, sì, dottor Belletti, questo è l'auspicio per la politica. L'augurio personale invece qual è? Glielo posso chiedere? Ma forse essere ascoltato maggiormente dalla politica come rappresentante del popolo delle famiglie, perché questo è una delle... il nostro paese ascolta troppo la politica e poco la società. Deve rafforzare la sua lobby, dottor Belletti, che non è grande come quella, è importante come quella delle banche, delle assicurazioni, dell'industria energetica. Forse deve trovare appunto qualche politico più coraggioso che la rappresenti meglio. Allora noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Grazie a Francesco Belletti, grazie, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, che è stato con noi questa mattina. Adesso ho ancora un'altra pausa, poi ritorniamo insieme a Giampaolo Bazzani e Mauro Meaz per concludere appunto la nostra trasmissione sugli auspici economici e finanziari, su quello che potrà accadere appunto il prossimo anno. Ma qua l'esercizio della previsione è veramente diventato complesso per tutti, almeno per quelli che si azzardano a farlo, perché c'è chi addirittura non vuole farlo neanche più. Salva Danaio. Riconosco che stamattina a Salva Danaio abbiamo voluto dare una declinazione alla nostra trasmissione abbastanza originale, previsioni in termini generali sugli scenari economici, un po' un occhio alle famiglie. D'altronde, per concludere l'anno anche con la nostra trasmissione, siamo andati alla ricerca di qualcosa di originale per non tornare di nuovo a deprimervi con esclusivamente la spiegazione di come funzionerà l'applicazione dell'IMU piuttosto che della nuova patrimoniale appunto sui prodotti di investimento. Dal 2 gennaio torneremo sul nostro seminato, infatti Mauro, magari con Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 ore, peraltro, per chi volesse dilettarsi in questo fine settimana di Capodanno nella dare un'occhiata al suo futuro previdenziale. So che il Sole pubblica anche un instant book sulle pensioni domani, no? Sì, adesso però non vorrei aggiungere motivi di scontento. Tu sei capace anche di dare una, come dire, inclinazione divertente, se vuoi, gli argomenti. Qui ti conosco fin troppo bene. Sulle pensioni non è semplicissimo, comunque è vero, diamo da domani sul sito e poi da sabato 7 gennaio sarà in edicola, quindi anch'io faccio il mio piccolo, la mia piccola previsione. Diamo questo instant dedicato alla riforma Monti Fornero sulle pensioni, quindi tutte le nuove regole, come cambia, lo trovate prima sul sito, perché facciamo questa anticipazione digitale, il nostro sito www.ilsole24ore.com, ci arrivate anche dal sito di Radio 24, www.radio24.it, e poi da settimana prossima, dal 7 gennaio, in un altro anno, ci sarà anche il formato cartaceo, il formato tradizionale cartaceo venduto in edicola. Non è che le pensioni siano proprio un motivo di sollievo per il 2012, no. Però le regole cambiano, si spera, per far così dei sacrifici che ci aiutino tutti, insomma, in qualche modo difendano anche il risparmio, difendano quanto siamo riusciti ad accumulare o a difendere in questi anni. Quindi sacrifici appunto delle generazioni che dovrebbero andare adesso in pensione anche per costruire un futuro un po' più sereno anche per le nuove generazioni. So che questa relazione in questo momento è molto difficile da vedere, Mauro, però forse l'obiettivo è anche un po' quello. Sì, ma nei mesi scorsi, adesso poi non se ne è parlato più, ovviamente ci siamo distratti sulle persone nate nel 52, nel 53, giustamente, però nei mesi scorsi erano usciti un po' di articoli, non solo su Sole 24 Ore, che segnalavano, attenzione, con la gestione separata INPS dei collaboratori, insomma questo tipo di occupazione di nuovo modo, non ci sono pensioni sufficienti per campare proprio, cioè è una gestione che erogherà pensioni troppo basse. Allora questo è un problema che noi possiamo far finta di non vedere, però comincia a riguardare persone che hanno 30-40 anni e quindi non sono poi così lontane da una prospettiva previdenziale loro. Riformare le regole delle pensioni vuol dire anche cercare di riequilibrare il sistema, evitando che ancora alcuni di noi prendano parecchio e poi quelli che verranno dopo non abbiano più sentano nulla. Sentano solo l'odore della pensione, esatto. Allora, Bazzani, ritorno a lei, alle previsioni di Saxo Bank per il 2012, la lista del cigno nero, quindi le previsioni ragionevoli e quelle un po' più scioccanti, nei confronti delle quali appunto ci potremmo imbattere l'anno prossimo. Sullo spread ha qualcosa da dirci? Avremo un po' più di tranquillità l'anno prossimo dal punto di vista italiano, quindi il nostro differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, oppure questo è un campo che non avete esplorato? Credo che ormai sui 500 punti, 520 punti sia un nuovo dato di equilibrio, quindi si ridurranno dai 123 di aprile, 500 attuali sono un dato di equilibrio, è un dato di equilibrio finanziario. Questo non vuol dire che sia giustificato dai fondamentali, anzi sposo la visione, le dichiarazioni del primo ministro Monti, sono ingiustificati il 5% rispetto ai titoli di Stato tedeschi in questo momento. Le vostre previsioni per l'anno prossimo dicono che saranno nazionalizzate 50 banche europee a causa della stretta regolatoria di Basilea 3. Ce ne saranno anche di italiane, no? Fino adesso abbiamo scongiurato questa circostanza in Italia, anche nei momenti più drammatici per le banche internazionali. Vede anche una italiana in questa rosa? Vedete anche una banca in questa? Non siamo scesi nel dettaglio per ovvie ragioni, per non inimicarci in nessun paese. Penso di sì. Penso che le principali banche italiane siano in questo momento più o meno nelle condizioni delle principali banche europee. Quindi le nuove regole di Basilea imporranno una riduzione forte dell'indebitamento, la cessione di alcuni asset. Noi abbiamo delle banche che sono delle conglomerate, la banca commerciale, la banca di investimenti, i fondi comuni, le compagnie di assicurazione, alcune basate magari in Irlanda o in Lussemburgo, dove si pagano aliquote sui redditi d'impresa molto più basse di quelle italiane. Ecco, tutto questo verosimilmente dovrà cambiare, e lo scenario cigno nero non auspicabile naturalmente è quello di una svendita di questi asset e quindi della difficoltà di alcune grosse banche di far fronte al mercato stesso. Quindi un intervento statale, una nazionalizzazione, la scomparsa di alcuni marchi. Non è un tabù nemmeno in Germania. Der Spiegel, settimanale tutti noto, settimana scorsa ha pubblicato uno studio in cui si dice che è alla valutazione del governo federale la possibilità di nazionalizzare Commerzbank sì. Che non è una banca piccolina, non è una banchetta. Un altro tema che voglio affrontare con lei, perché ci ha interessato molto nelle ultime settimane, perché molti piccoli risparmiatori hanno avuto la tentazione di portare anche i loro piccoli patrimoni in Svizzera, sono andate a rubare cassette di sicurezza. Il Sole 24 Ore ne ha scritto tantissimo su questo fenomeno che si è verificato appunto proprio perché nei momenti più preoccupanti dell'andamento dello spread a molti è venuta la tentazione di liquidare tutto il deposito in banca e piuttosto che mettere sotto il materasso naturalmente portare in Svizzera. Secondo voi invece nuovi porti sicuri dopo la Svizzera, non so se in questi stessi termini, saranno la Svezia e la Norvegia l'anno prossimo? In che modo, in che termini, Bazzani? Lasciamo stare delle cassette di sicurezza in Svizzera, quindi, che non sono... L'obiettivo non è di spingere i risparmiatori a sottoscrivere o comunque aprire cassette di sicurezza in banche svedesi o norvegesi, ma l'obiettivo, come dire, l'idea è un'altra. No, è un sentimento che possiamo osservare noi in quanto banca danese, è che effettivamente ci sia un rischio paese nell'animo dei risparmiatori. Noi chiudiamo il nostro miglior mese di sempre, da quando dal 1999 serviamo clienti italiani. C'è stato proprio tramite bonifico bancario naturalmente. E certo, anche perché voi permettete di operare online, trading online. Ma solo attraverso bonifici bancari, e quindi c'è stata l'apertura di conti in Danimarca, non penso per finalità di mero investimento in corona danese o in qualsiasi altro attività finanziaria disponibile sui mercati, ma per diversificare il rischio paese, per paura dell'euro. Per quanto riguarda la Svezia e la Norvegia, sono due paesi che ha citato il sociale, il sostegno alla famiglia, molto più avanti di noi. Un'amniocentesi la viene pagata a tutte le signore, le mamme in attesa, indipendentemente dall'età. In Italia credo che costi non meno di 800.000 euro, giusto per dare una metrica che tutti possono comprendere. Godono ai loro, o fortuna loro, di economie molto più sane della nostra. La Norvegia in particolare, grazie anche al fatto che è un produttore di gas naturale, il sesto produttore di petrolio nel mondo, i petrolieri con gli occhi azzurri, come vengono chiamati, hanno avuto la forza di reinvestire gran parte di questo denaro nel fondo sovrano, in uno dei fondi sovrani più grandi del mondo, che dà una potenza d'urto non indifferente a questo stato. Quindi Norvegia è in subordine alla Svezia, potrebbero essere il nuovo porto sicuro se la Svizzera dovrà affrontare taluni problemi, un franco troppo forte, quindi addirittura la riduzione di forza lavoro in una catena, un'importante catena di supermercati svizzeri. Benissimo, ci ha incuriosito davvero molto sulla rosa dei vostri, come dire, propositi finanziari, non dei propositi finanziari, delle previsioni appunto per il prossimo anno. Non abbiamo il tempo di ascoltare anche le altre previsioni. Prima di salutarci vorrei sentire un'ultima rapidissima riflessione di un ascoltatore che è Bruno da Prato. Buongiorno, rapido se ce la fa Bruno, grazie. Sì, ciao Deborah, ci provo. Niente, non avendo capitali da investire, pensavo di proteggere il capitale umano che sarei io, essendo l'unico percettore di reddito della mia famiglia. Ero indeciso se stipulare una polizza vita temporanea caso morte o una polizza vita mista rivalutabile, magari a 15 anni, per che magari a fronte di premi più alti rispetto alla TCM, però magari a fine mi darebbe anche diritto a riprendere un qualcosa, mentre la TCM i premi versati sarebbero persi. Bruno, io purtroppo non ho tempo di fare una risposta, ecco, arriva già la sigla, non ho neanche il tempo di farvi rispondere. Allora, noi ci prendiamo in carico il suo caso, organizzeremo una trasmissione su questo magari all'inizio dell'anno, perché molte famiglie staranno in questo momento pianificando anche proprio come dire, la protezione della famiglia in questi termini. 10 secondi però Bazzani, che alzava la mano, voleva magari dare un suggerimento a Bruno, glieli posso concedere? Allora, solo TCM diretta, non faccia la mista dei costi occulti. Ah, proprio così secco. Mauro Meazza, risparmio, l'anno prossimo sarà anche tassato, la tassazione sarà rimodulata, ci obbligherà a fare un po' di conti prima di sottoscrivere un qualunque prodotto di investimento. Sì, cambiano le regole per il risparmio, quindi è importante che anche nel posizionarsi non ci si faccia prendere un po' dall'emotività. Devo salutarvi, grazie, buon anno a Mauro Meazza, Gianpaolo Bazzani, a Marco Lombardo, Carmelo Lauricella, Pagliarini che vuole subito venire a leggere il radiogiornale. A tutti buon anno, ci sentiamo il 2 gennaio. Da Deborah Rosciani un saluto a tutti.